in primo piano. Lunedì 1 novembre, i giornali in edicola, Il Sole 24 Ore per la seconda settimana, sapete che ha rinnovato al lunedì, più attenzione alle piccole e medie imprese, ritorno al credito con cautela, questo è il titolo di apertura, ma poi su tutti i quotidiani generalisti diciamo che la vicenda Ruby è una vicenda che davvero ormai è diventata anche una vicenda politica e conquista e conquisterà ancora per giorni le prime pagine, potete scommetterci. Ruby, severo, il premier si dimetta, questo è il titolo di Repubblica e del Corriere, è uguale, se è vero il premier lasci, attribuito o meglio una dichiarazione di Gianfranco Fini. Fini, paese fermo e dilaniato anche per la stampa, il giornale Fini, il giorno dello sciacallo. Questi alcuni dei titoli delle prime pagine, ne vedremo altri. Io voglio iniziare da due segnalazioni. La prima è quella che c'è la classica, consueta ricerca e caccia dei vincitori del Superenalotto. Questa volta, sapete, il jackpot è stato sbancato da un sistema fatto al computer con 70 vincitori, la maggior parte dei quali sono a Sperlonga, in provincia di Latina. Infatti il Messaggero a pagina 9, ecco i 25 neomilionari di Sperlonga, gente che lavora, se lo meritano tutti, un po' tutti gli inviati sono a Sperlonga, anche la stampa con Francesca Paci. Uno per esempio non fa mistero, Vincenzo Pezzuco, prima che si dichiarasse ufficialmente il suo nome era già rimbalzato fino al bar dove ha vinto, insomma ovvio, appena 6 mesi fa tra l'altro lui aveva vinto anche al gratta e vinci 200.000 euro più 6.000 al mese per 20 anni e 100.000 di bonus. No, il nostro tecnico Filippo Aureggi ha fatto un gesto come dire: che gran fortuna questo signore, aveva vinto 200.000 euro 6 mesi fa, ora ha vinto 2 milioni e rotti, uno dei 70, e vabbè, ha vinto lui. Il Corriere invece intervista chi? Il Corriere della Sera, pagina 20, intervista Lorenzo Betti, che a Colico, in provincia di Lecco, è colui che ha formulato questo sistemone poi finito nel cervellone della Sisal. Eccolo qui, l'inventore della mamma, così è stato soprannominato questo sistemone. E perché? Perché lui lo spiega: avevo scelto 43 numeri, osservando le ultime 200 estrazioni giocate, mi mancava un numero per completare. E a mia moglie, dietro al bancone, dissi: metto il 55, l'anno di nascita di tua sorella. E un cliente in quel momento esclamò: è anche quello di mia madre. E allora vada per il 55 e chiameremo il sistemone la mamma. Ecco qui, è nato tutto. Il genio del sistemone, l'ho ideato con 43 numeri, ma non ho vinto nulla. Lorenzo Betti, intervistato dal Corriere della Sera. Insomma, è tornato il tormentone del Superenalotto. Stavolta però col fatto che abbiano vinto in 70, non so, c'è un po' meno attenzione. Come se i giornali siano rimasti un po' delusi, no? Invece di andare a scovare quello che ha vinto da solo 170 e rotti milioni. Sul secolo XIX in prima pagina però ci si chiede una domanda fondamentale: ma noi Liguri siamo i più sfigati del paese? Questo in un fondo di prima pagina, perché la Liguria, insieme a Valle d'Aosta, Trentino, Alto Adige e Molise, sono le uniche regioni dove mai, mai, mai è stato vinto un 6 al Superenalotto. E al secolo XIX si pongono questa domanda esistenziale: siamo i più sfigati noi? Giuliano Galletta in prima pagina del secolo XIX. Voglio andare a un'altra segnalazione molto interessante che trovate in prima pagina di Repubblica, che è questa. Succede a Pistoia, dove per un'iniziativa di un consigliere comunale dell'Italia dei Valori è stata approvata una norma per cui non ci potranno mai più essere parenti in ufficio fino al terzo grado. Basta coi colleghi parenti, racconta Marina Cavalieri su Repubblica. Una norma approvata nel comune di Pistoia stabilisce che non ci potranno più essere relazioni familiari tra capi e sottoposti. Bisognerà evitare che cugini, zii, cognati abbiano rapporti di lavoro negli stessi uffici, che marito e moglie possano influire l'uno sulla carriera dell'altro. L'hanno chiamata già la regola antinepotismo, combatte quella rete capillare insidiosa, quel muro invisibile presente in tutti i posti di lavoro fatti di colleghi in ufficio e a casa parenti. La proposta Andrea Betti, consigliere dell'Italia dei Valori, che dice: da quanto mi risulta è la prima volta in Italia e forse in Europa che l'amministrazione pubblica si dà questa regola, Insomma, quando c'è una posizione gerarchica non possono esistere e coesistere coniugi né parenti entro il terzo grado. Niente parenti nello stesso ufficio, una norma separa moglie e marito, lo ha deciso il comune di Pistoia, è la prima regola ad entrare in vigore in Italia di questo tipo in una pubblica amministrazione. Lo leggete a pagina, prima pagina e poi pagina 25 di Repubblica. Ci fermiamo, pubblicità e meteo, poi rientriamo con ovviamente il tormentone, la vicenda che coinvolge la ex minorenne, da oggi diciottenne, Ruby. La vicenda Ruby, allora, certamente è sulle prime pagine dei giornali un po' ovunque, è diventato un caso politico ormai in maniera evidente, soprattutto dopo che ieri il leader di Futuro e Libertà, presidente della Camera Gianfranco Fini, ha parlato esplicitamente di un passo indietro di Berlusconi. Su tutti i giornali trovate pagine e pagine ancora di questa vicenda, sia sul lato politico sia sul lato di possibili sviluppi dell'inchiesta. Questo titolo, Ruby, severo, il premier si dimetta, che mettono sia Repubblica sia Corriere della Sera in prima pagina, viene perché ieri, fa sapere il Corriere della Sera, Fini ha parlato di un passo indietro di Berlusconi, non lo ha fatto un'iniziativa pubblica, è stato intervistato dal direttore del Messaggero Roberto Napoletano, però la domanda, o meglio questa frase, l'ha detta una volta finite questo botta e risposta. Fini ha parlato così, ha detto: se le notizie che arrivano da Milano sul caso Ruby fossero vere, Berlusconi dovrebbe fare un passo indietro. Lo dice in maniera chiara, tra l'altro Fini, anche poco prima, parlando appunto col direttore del Messaggero, aveva detto, ha detto questa frase che per il Corriere è anche un giallo: ero dalla Merkel e potete figurarvi i commenti. Questa storia sta facendo il giro del mondo e mette l'Italia in condizioni imbarazzanti. Perché è un giallo? Perché in realtà a pagina 6 il Corriere, nell'articolo di Corredo, fa sapere che Fini, in realtà la Merkel, quando è andata in Germania, non l'ha neanche vista. Ha avuto altri incontri istituzionali, ma Danilo Taino racconta: Fini, quel giorno, il giorno in cui è esplosa questa vicenda, non ha avuto un incontro con la cancelliera Angela Merkel. Non risulta nemmeno che le abbia parlato al telefono. Certo, un po' tutti discutevano, sia in Italia sia all'estero, di questa notizia che agitava la politica a Roma, per questo sarà stata la questione del giorno, ma pare addirittura che qualcuno abbia detto la cancelliera Angela Merkel si sia irritata per essere stata coinvolta in un affare che non la riguarda. Cioè questa frase di Fini, ero dalla Merkel quando è venuta fuori questa vicenda, e potete immaginare i commenti. Quello che rimane di concreto è però questa frase di Fini, e cioè se è vero tutto questo, se è vera la telefonata, se è vera la questione che ha detto alla polizia lasciatela che è la nipote di Mubarak, allora deve fare un passo indietro. Già si scatenano i retroscenisti, perché Carmelo Lo Papa, a pagina 3 di Repubblica, dice, scrive così: il leader Futuro e Libertà, l'addio è segnato, ma Silvio dice venderò cara la pelle. Questo sarebbe l'atteggiamento di Berlusconi ieri. Se davvero Gianfranco va fino in fondo è anche meglio, sapremo a chi dare la colpa per avere staccato ovviamente la spina al governo. Ma il cammino ormai è segnato, invece fa sapere Fini ai suoi fedelissimi, vanno consumati tutti i passaggi, ma non è escluso che la crisi si apra prima del previsto. La situazione è molto molto instabile, si può dire, nel senso che nessuno forse vuol fare la prima mossa, ma anche Bossi a pagina 4 di Repubblica: Silvio non doveva chiamare la polizia, poteva telefonare a me o a Maroni, e se il governo cade la Lega se la cava. Sapete che Bossi da un paio di giorni pare che la Lega, almeno nei rumors di Bossi, non esclude neanche la possibilità di un governo tecnico, perché dice forse così la Lega va all'opposizione e alla Lega questo conviene. Sapete che è una delle strategie della Lega, no? Dire la Lega si è sempre rafforzata perché ogni tanto è stata al governo, ogni tanto è stata a fare l'opposizione dura. Anche se sul governo tecnico, eccola qui, poteva mancare l'anticipazione anche ieri, anche di domenica, del libro di Bruno Vespa che arriverà, chissà quando arriverà, insomma, sotto Natale. Berlusconi, governo tecnico antidemocratico, è contenuto nell'ultimo libro di Bruno Vespa questa frase: non credo che Napolitano, il presidente, possa dire sì, sarebbe danno grave il voto anticipato, ma soprattutto sarebbe antidemocratico consentire un rovesciamento del risultato elettorale con al governo chi ha perso le elezioni e all'opposizione invece chi le ha vinte. La situazione politica è talmente complicata che, secondo la stampa, pagina 4, Berlusconi tende la mano all'UDC di Casini. Questo sarebbe, secondo Ugo Magri, il prossimo scenario politico. Berlusconi ha raccomandato ai suoi: non sparate su Pier Ferdinando, l'obiettivo non lasciare spazio a un esecutivo tecnico. E quindi aprire ai contatti con l'UDC per evitare in tutti i modi la situazione di una possibile crisi di governo. Ovviamente sono anche tante le interviste. Su Repubblica viene intervistato Walter Veltroni, che a Curzio Maltese, a pagina 7, dice: Berlusconi si deve dimettere, perdere tempo è pericoloso per il paese, deve dimettersi subito, non c'entra la vita privata, ciò che è grave è la telefonata in questura, aver mentito alla polizia, cose inimmaginabili in qualsiasi paese. In un colpo solo Berlusconi ha commesso un abuso di potere, violato l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, raccontato una menzogna spudorata a un pubblico ufficiale, dicendo che la ragazza, peraltro marocchina, era la nipote del presidente egiziano Mubarak. Ha coperto di ridicolo e disonore il paese sulla stampa mondiale, ed è questa telefonata e la concezione proprietaria del potere che essa esprime che non sono tollerabili. Insomma, un Veltrone d'attacco su Repubblica dice: si dimetta. Invece prende le difese del premier Maria Stella Gelmini, il ministro dell'istruzione, a pagina 4 del giornale, fa un'intervista a Paolo Bracalini. Il fango su Silvio e le ministre, autogol del partito dell'odio. Ci risiamo col sexy gate, siamo vaccinati, io per prima, il solito copione, niente di originale. Così inizia l'intervista a Maria Stella Gelmini. Ora Ruby, prima Noemi, ogni 6 mesi ne tirano fuori una del genere che si dimostra ogni volta basata solo su falsità. Se vanno avanti così avremo Berlusconi premier per i prossimi 10 anni. Tra l'altro Repubblica, nel primo articolo di D'Avanzo, aveva parlato di feste con Ruby e anche due ministre. E proprio a questa domanda non si sottrae la Gelmini, dice: il fango di D'Avanzo lo conosco bene, lo invito pertanto a fare i nomi. Io ad Arcore ci sarò stata 1000 volte, ho partecipato a incontri politici, certo ho ascoltato qualche barzelletta che Berlusconi racconta per sdrammatizzare, ma mai visto feste o festini come si vorrebbe far credere. Solo un tentativo basso di gettare fango sulle persone. Allora, questo è tutto l'aspetto politico. Poi ovviamente c'è tutta la vicenda legata agli sviluppi dell'inchiesta. Intanto faccio notare una cosa, che oggi Ruby compie 18 anni e il Corriere della Sera è l'unico giornale che ha deciso, almeno io da prima vista così li ho sfogliati un po' tutti, ha deciso di pubblicare le foto non più occultate. Sapete che per ora apparivano queste foto con il viso, gli occhi irriconoscibili, e tra l'altro questo ha dato spunto a Francesco Piccolo, poeta, scrittore, che cura una rubrica sull'Unità ogni lunedì a pagina 3 oggi dell'Unità. Francesco Piccolo dice: trovo agghiacciante questa cosa, perché se noi quelle foto oscene, parla di Avetrana ma anche di queste foto di Ruby, perché, dice Francesco Piccolo, il risultato di sfocare il volto porta tutto a una sua morbosità, spero involontaria, perché le uniche parti non sfocate sono i frammenti di corpo di Ruby e sono le uniche parti della fotografia dove può cadere lo sguardo. In questi frammenti di corpi, in posa da servizio fotografico, mirano a raccontare il più possibile facendo vedere pochissimo. Insomma, se avete visto le foto di Ruby, i particolari non sfocati, insomma, sono particolari, ecco, del corpo che tutti possiamo immaginare. Ebbene, oggi il Corriere decide, come per esempio lo trovate a pagina 3, ecco il volto non più sfocato di Ruby. Sul Corriere, visto che è maggiorenne, trovate tutte le foto ora con il volto suo non manipolato. Appunto, dicevamo, la questione della telefonata è la questione che ancora tiene banco più di tutti. Intanto il Corriere mette le 6 verità, i 6 punti rimasti oscuri in una lunga pagina di Luigi Ferrarella, pagina 5, sono la bugia su Mubarak. C'è anche la riproduzione del rapporto del questore di Milano mandato al ministro Roberto Maroni in merito a quella notte del 27 maggio. Si legge tra l'altro che il presidente Berlusconi chiedeva informazioni circa l'accompagnamento di una ragazza di origine nordafricana segnalata come parente del presidente egiziano Mubarak. Poi c'è questa, il secondo punto oscuro secondo il Corriere è questo: c'era o non c'era posto nelle strutture per minori? perché la polizia ha detto non c'era posto e dunque l'abbiamo data alla consigliere regionale Minetti, Nicole Minetti, che ci è stata segnalata dalla Presidenza del Consiglio. E invece il Corriere dice abbiamo fatto dei giri di telefonate, per esempio in vari centri dove si ospitano i minori, ed ecco qui a pagina 2 le comunità di Milano dicono quella notte da noi c'era posto ma nessuno ci ha chiamato. Insomma, ci sono tante questioni che ancora vanno chiarite. Sempre per il Corriere, Fiorenza Sarzanini sente la funzionaria di polizia Giorgia Iafrate, che è stata coinvolta quella serata, è stata chiamata dal capo di gabinetto del questore Pietro Stuni, dicendo appunto ci sono delle telefonate che dicono di lasciare libera la ragazza. Se sono stati commessi abusi non sono imputabili alla polizia, questo dice la funzionaria interrogata. Mentre Piero Colaprico su Repubblica va a ascoltare in qualche modo la versione della procura dei minori di Milano. I procuratori dicono il PM è stato truffato, basta con le bugie, il PM non ha mai dato l'autorizzazione a dare alla questura in affidamento questa Ruby alla ex igienista dentale del Premier Nicole Minetti e consigliere regionale, perché il PM ha sempre detto bisogna mandarla in una struttura. Il PM dei minori Anna Maria Fiorillo ci ha tenuto a far sapere che non diede alcuna autorizzazione all'affido alla ragazza. La consigliera della Presidenza del Consiglio e con incarico presso la Presidenza del Consiglio, Nicole Minetti, di 25 anni. Sulla telefonata anche il giornale invece dà la sua diversione. Enrico Lagattolla, pagina 5, la verità sulla telefonata del Premier in questura. Ecco qui, al momento della chiamata notturna al capo di gabinetto, Berlusconi non sapeva che Ruby fosse stata accusata di furto, non ha fatto alcuna pressione sulla polizia milanese, non ha mai affermato che fosse parente di Mubarak. È stata la ragazza a raccontare tutto questo. Sta di fatto, tra l'altro, che sul giornale c'è un duro attacco in prima pagina a Fini. Io l'ho letto prima il titolo di apertura. Fini, il giorno dello sciacallo. Il direttore Alessandro Sallusti fa un editoriale molto duro. Traggono profitto dalle difficoltà altrui. Sono gli sciacalli. Agiscono da soli, al massimo in coppia, ma in alcune rare occasioni si riuniscono in branco per nutrirsi di una preda particolarmente grande. Ce ne sono di varie specie, tutte presentano notevoli somiglianze morfologiche. In politica ci sono di destra, di sinistra e pure di centro. Ecco qui, fallito il colpo del bunga bunga, dice Sallusti, ora ci si attacca coi denti a due telefonate, quelle fatte prima dal Premier e poi il suo capo scorta alla questura di Milano. Secondo Sallusti è tutto qui, niente di anomalo, niente di strano. E chi è il capo branco degli sciacalli? Gianfranco Fini. Ieri ha giurato che in Parlamento farà ostruzionismo a qualsiasi legge che piaccia al Premier e che questa vicenda sta facendo fare all'Italia una figura imbarazzante. E poi Sallusti dice a nostro avviso imbarazzante più lui. Da segnalare anche due brevi interviste sul caso, così lo chiudiamo, ma d'altronde è condensato, perché vi potete immaginare, ci sono paginate e paginate sui giornali. Repubblica intervista con Massimo Lorello, il padre di Ruby, venditore ambulante in Sicilia a Leto Ianni in provincia di Messina. Guadagno 20 euro al giorno, mi vergogno per quei regali a mia figlia, è solo una bugiarda. Lei, altro che io la picchiavo, non l'ho mai picchiata, sono venuti a controllarmi, sono sempre stato libero perché non hanno mai trovato niente su di me, non c'è mai stato niente, non ha mai lei amato la religione, ma che religione, non sapeva neanche cosa significasse la parola pregare, lei non pregava ma fregava, per questo si è messa nei guai. E poi c'è anche una brevissima intervista che però mi sono perso, intervista, insomma una breve conversazione con la stessa Ruby sul Corriere della Sera, pagina 4. In realtà una conversazione che si conclude bruscamente perché, insomma, come stai? Bene. Poi si mette a ridere. Scusa, dice al giornalista, qualcuno si stava impiccando per scherzo, ma era meglio se lo faceva. Risate di sottofondo, poi cade la linea. Poi richiamiamo, dice il giornalista del Corriere, tale Luca Risso che dovrebbe essere con lei, e infatti eccolo qui, quando chiamiamo Luca Risso lei riprende il telefonino e dice: la dovete finire di stressare i coglioni a me e alle persone che mi stanno vicino. Così si concluse la telefonata brusca di Ruby col Corriere della Sera, il traffico. Ritorno al credito con cautela, questo è il titolo di apertura, come abbiamo detto, del Sole 24 Ore di oggi, di lunedì 1 novembre. A settembre è stato certificato che il credito per le piccole e medie imprese ha fatto registrare un incremento dello 0,4%, si legge poi a pagina 3 con Chiara Bussi. Il credito per le piccole e medie imprese, insomma l'apertura del credito, una delle fondamentali attività per sopravvivere per le piccole e medie imprese. A settembre le erogazioni tornano in positivo, anche se si fa registrare come i finanziamenti restino selettivi, spesso affidati a formule matematiche, più che poi a valutare le capacità prospettiche di far fronte agli impegni, anche le capacità di innovare, le capacità anche di valutare i progetti secondo altre tipologie di valutazioni, come quello di premiare le idee innovative. Certo, però, almeno dal punto di vista dei freddi numeri, le erogazioni tornano in positivo, fa sapere il Sole 24 Ore. Chi invece non se la passa molto bene, questo è un articolo che vi voglio segnalare a pagina 6, un'inchiesta molto interessante che prende spunto da alcuni dati della Corte dei Conti, sono diversi comuni italiani. Spesso lo sappiamo, i comuni italiani rischiano il dissesto economico, comportando poi notevoli problemi economici per i cittadini, che molto spesso vivono passivamente e senza alcuna responsabilità questa situazione. Ebbene, sappiate che in Italia, secondo la Corte dei Conti, più di 1500 comuni nel 2009 hanno riconosciuto debiti fuori bilancio, buchi imprevisti, ufficialmente 650 milioni di euro, ma che in realtà potrebbero essere anche molti, molti di più. Ed eccola allora la mappa. A pagina 6, i buchi nelle casse degli enti locali, il miliardo ombra dei sindaci. Gianni Trovati racconta appunto quello che succede con le tre maledette D: debiti fuori bilancio, disavanzo, dissesto. Ci sono comuni con i disavanzi al 2009 già individuati dalla Corte dei Conti. Volete qualche esempio? Alessandria, 4.756.000 disavanzo del 2009. Sempre Tortona, sempre in provincia di Alessandria, 470.000 euro. Coriano, 1.016.000 euro. Campi Bisenzio, Firenze, 1.871.000 euro. Fivizzano, Massa, 2.659.000 euro di disavanzo. Battipaglia, provincia di Salerno, 7.390.000. Pistoia, quello che avevamo citato prima, dove non vogliono far lavorare insieme i parenti di terzo grado, 3.500.000 di dissesto. E poi il focus sul Sole lo fa su proprio due città, Alessandria per l'appunto, dove sappiamo, abbiamo detto, ci sono dei problemi, e Foggia. Foggia, scrive Fabio Pavesi, l'Italia non è certo la Grecia, ma Foggia rischia di diventare come la Grecia. Da mesi, anzi dalla fine del 2008, la città corre pericolosamente sul filo del rasoio, con una crisi di liquidità e un rischio di dissesto. Quindi tutti i comuni a rischio dissesto li trovate sul Sole 24 Ore. Sapete che l'Italia è il paese dell'abusivismo, anche purtroppo vantiamo questo primato, ma quello che racconta oggi il Messaggero in prima pagina è davvero qualcosa di incredibile, cioè l'abusivismo ha colpito il cuore dello Stato. Abusivismo a Palazzo Giustiniani, poco meno di un monumento. L'ex quartiere generale della massoneria, ora sede del Senato della Repubblica. Palazzo Giustiniani, la sede del Senato, edificio di fine 500 di proprietà del Demanio, che ha fatto, scrive Claudio Marincola, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato condannato in via definitiva a pagare i danni causati a un inquilino del palazzo, un privato cittadino, per una lunga serie di lavori effettuati dal provveditorato alle opere pubbliche del Lazio che hanno messo a rischio la struttura e che sono state giudicate abusive. Lavori a un ascensore, lavori di consolidamento, insomma è stato condannato il ministero, al quale ha fatto causa la famiglia Marchioni, che non ha raggiunto l'accordo che sperava e ora è andata avanti e ha ottenuto un risarcimento. Il Messaggero, per la verità, non quantifica. In ogni caso, abuso, abusivismo anche a Palazzo. Nel Palazzo del Senato l'abusivismo, i vicini fanno causa e vincono due sentenze contro Via 20 Settembre, decine di perizie e relazioni, e ora tra l'altro le strutture cominciano a cedere. È davvero incredibile questa vicenda raccontata in prima pagina e poi all'interno a pagina 6 sul Messaggero. Che dire, dobbiamo chiudere. Chiudo solo ricordando il tema del nostro sondaggio che vi invito a votare: proposta di legge, una donna su tre nei vertici aziendali, nei consigli di amministrazione delle aziende. Questo per legge, delle quote rosa nei vertici aziendali. Questa è una proposta di legge sulla quale vi chiediamo il vostro parere. Votate su radio24.it, ora il GR.